Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Su una parete le fotografie di Emilio Alessandrini e di Guido Galli, magistrati uccisi dal fuoco degli anni di piombo. Su un'altra il poster del pittore americano Norman Rockwell. Una bimba con un vestito candido cammina con passo fiero in mezzo a tre anonime divise. Alle sue spalle una chiazza di pomodoro sulla scritta Niger. È per le prime, come per quest'ultima immagine, appesa nel suo ufficio, che dopo 30 anni di carriera, tra storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa, Armando Spataro, procuratore aggiunto di Milano, conclude «Ne valeva la pena». E questo è il titolo del suo libro, appena uscito per la Terza. «Ne valeva la pena» è un'affermazione, non è una domanda che pongo. Intendo con quel titolo dire che la magistratura, prima ancora che io stesso, ha attraversato una serie di vere e proprie tempeste, non solo il numero dei magistrati uccisi, ma il ruolo che la magistratura ha avuto contro il terrorismo, contro la mafia, contro la corruzione, si sa, ha esposto la magistratura ad attacchi fisici, oggi ad attacchi morali. Ecco, il messaggio alla fine è, nonostante tutto questo, il magistrato deve avere come stella polare la legge, senza curarsi né degli interessi di chi governa, di qualunque colore li sia, né degli insulti, e andare avanti. Se nel titolo non c'è la domanda, parte però da una riflessione, sia pur via SMS. Sì, la prefazione del libro è costituita dal ricordo di una domanda, appunto ne valeva la pena, con un interrogativo che mi venne posta da un caro maresciallo dei carabinieri che lavora con me da decenni, e da un SMS che mi inviò invece più recentemente il collega Pomarici. Nel primo caso il maresciallo usciva con me dall'ennesima commemorazione dell'omicidio di Emilio Alessandrini, ovviamente il nostro animo era come sempre turbato, e appunto il maresciallo commentava le ultime aggressioni ricevute dalla magistratura e appunto commentava ne valeva la pena, ma lo diceva retoricamente, sapeva la risposta, così come lo sapeva Pomarici, che dopo che entrambi ci siamo trovati di fronte al segreto di Stato apposto sulla vicenda dal governo Prodi, chiedeva ne valeva la pena rischiare la vita contro le BR. Entrambi sapevano bene la risposta, cioè certo che ne valeva la pena, ma era la loro domanda volta a provocare riflessioni. La vicenda Abu Omar, che è stata uno degli ultimi grandi processi che lei appunto e il procuratore Pomarici avete portato avanti, fa un po' da filo conduttore del suo libro, in cui le varie vicende si interfacciano con i passaggi del passato, con la lotta alle Brigate Rosse, il terrorismo, la mafia. È come se questo processo avesse un po' rappresentato una delusione per un cammino fatto. L'amarezza provata con la vicenda Bomar è un'amarezza che io non scollego da tutto quello che è avvenuto in passato. Per me è passato, presente, si interessa. Tutto si lega e niente si può dimenticare. Ecco, da lettrice, leggendo questo libro e vedere questi capitoli intervallati all'impegno nella lotta al terrorismo, è come se si andasse a vedere che quando invece poi si ci trova a dover indagare su pezzi che fanno parte dello Stato, ci si aspetterebbe casomai una condotta di tipo differente. Qui stiamo parlando della lotta al terrorismo. Con Pomarici ovviamente abbiamo speso molti anni della nostra vita, circa un decennio se non di più, nel contrasto del terrorismo delle Brigate Rosse, nei cosiddetti anni di piombo. Sappiamo quindi qual è la tragedia del terrorismo. Il ma è nel fatto che dopo la tragedia dell'11 settembre del 2001 è come se il mondo avesse subito una sorta di impazzimento originato da una giusta ansia di punire i colpevoli e di bloccare questo tragico fenomeno. Ma la teoria, diciamo, dell'amministrazione Bush, non a caso rovesciata dall'attuale presidente Obama, ha concepito questa lotta come una guerra in cui non valesse la Convenzione di Ginevra. Si crea la categoria del nemico combattente, si crea il sistema Guantanamo. Tutto questo trasforma anche il modo di pensare di alcune autorità politiche, tanto che ricordo sia le frasi di Blair che di Berlusconi nel 2005. Il primo disse le regole stanno cambiando, il secondo nessuno può seriamente pensare che i governi possono contrastare il terrorismo col codice in mano. Noi invece lo pensiamo e lo abbiamo dimostrato, anche perché metodi come quelli quindi dei sequestri di persona in danno di sospetti terroristi, come è avvenuto materialmente da parte degli americani in danno di Abu Omar, sono metodi che a nulla servono, addirittura danneggiano la lotta al terrorismo. Se Abu Omar non fosse stato sequestrato, avremmo continuato a pedinarlo, intercettarlo e scoprire altri complici oltre a quelli che già avevamo scoperto. Su questo però vorrei chiederle quante persone potevano essere la rete di Abu Omar. Dunque, Abu Omar è stato sequestrato il 17 febbraio del 2003. Su di lui la Digos si indagava da poco meno di un anno. Durante questo periodo erano stati individuati i suoi complici. Gli altri complici sono stati arrestati, condannati e sono in carcere. Dire che le indagini sono state bloccate e impedite è pura verità. Dire chi, quanti altri complici sarebbero stati individuati ed arrestati è impossibile, però è ragionevole dire che una persona che aveva un ruolo abbastanza importante sulla piazza di Milano avrebbe potuto consentire ulteriori sviluppi. In questo momento però devo anche dire che le indagini che sempre continuano potrebbero anche condurci a ritenere con moderato ottimismo che stiamo attraversando una fase in cui la situazione è sotto controllo. La vicenda Abu Omar le ha per caso rifatto venire in mente il caso Battisti, al capitolo torture? Sì, però questo in senso opposto, perché mentre per Abu Omar è pacifico che è stato sequestrato per essere portato in Egitto e torturato, la vicenda Battisti fu curiosissima, perché dopo l'omicidio Torreggiani accadde che un testimone, forse caso unico nella mia esperienza, vide fuggire gli assassini su una macchina, li seguì, vide quando cambiarono auto e salirono su un'auto pulita di cui rilevò la targa che comunicò alle forze di polizia. In serata praticamente la polizia era addosso al gruppo degli assassini, molti furono portati in questura, sentimmo i parenti, i quali smontarono di fatto gli alibi, insomma in sostanza la polizia arrivò alla verità in direi meno di 48 ore. Bene, già da un paio di giorni dopo questo sviluppo investigativo i giornali furono pieni di notizie secondo cui anche i parenti dei sospettati, per essere indotti a smontare con dichiarazioni false gli alibi veri dei sospettati, sarebbero stati torturati. Addirittura qualche giornale autorevole parlò di amputazioni, guardi, non si può proprio immaginare. E recentemente anche Battisti in Brasile si aspetta, come si sa, la decisione di Lula, dopo che la Corte Suprema ha detto che l'estradizione sarebbe da attuare. Battisti ha diffuso una sua lettera in cui mi attribuisce, come dire, il ruolo di coordinatore dei torturatori. Io per il momento coordino il reparto antiterrorismo, all'epoca neppure quello. Prima di chiudere la parte riguardante la vicenda Abu Omar, sembra di percepire una forma di delusione, si può usare questa parola, soprattutto nei confronti dell'esecutivo di centrosinistra? Non c'è dubbio, è chiaro che poi il governo di qualunque colore sia si assume la responsabilità dei suoi gesti, ma insomma è altrettanto possibile criticarlo. Io potrei ricordare i contatti che ho avuto con il ministro Amato, ministro dell'interno, che dopo l'incriminazione degli appartenenti al Sismi volle parlarmi. Io lo incontrai al Viminale, dove lui mi fece i complimenti per la qualità del lavoro della procura e della polizia nel rispetto dei diritti umani, a suo avviso irrinunciabile nella lotta al terrorismo. Mi chiese sostanzialmente delle indicazioni sul possibile futuro degli indagati americani, per cui parlammo apertamente. Se non che pochi mesi dopo appresi con sorpresa che il governo Prodi aveva votato all'unanimità, tranne il ministro Di Pietro, per contrastare con la posizione del segreto di Stato l'ulteriore proseguimento dell'investigazione. Dopo qualche anno il governo era cambiato, Amato si trova ad essere relatore in un convegno sui diritti umani alla Bicocca e sottoscrisse un documento con cui si chiedeva al governo del tempo di non usare il segreto di Stato. Per carità, sono fatti storici di cui ciascuno può darsi una spiegazione, però non vi è dubbio che dal mio punto di vista questo destava meraviglia, così come il comportamento di alcuni parlamentari del centrosinistra che quando era al governo Berlusconi e ministro Castelli criticarono il rifiuto di Castelli di inoltrare agli Stati Uniti la nostra richiesta di arresto a fini estradizionali degli americani. Poi però tacquero totalmente quando, cambiato il governo, il ministro era Mastella e non fece nulla neppure lui, anzi il ministro Castelli, va dato atto, aveva adottato formalmente una decisione. Dal ministro Mastella in poi nessun governo ha risposto alla nostra richiesta. Non vi hanno risposto, però lei poi ha scoperto tra le carte della vicenda di Brescia una corrispondenza tra il Premier e Pollari. In sostanza, il generale Pollari, che aveva già assunto la qualità di indagato, prospettava al governo una serie, a suo avviso, di gravi vizi della nostra indagine. E in questi casi, in genere, dai governi ci si aspetta interlocuzione con l'autorità giudiziaria. In quel caso non avvenne ciò e il governo invece adottò quelle stesse lamentele che provenivano da un indagato come base e ragione del conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale disse in realtà che l'indagine non aveva violato il segreto di Stato. Storielle. Storiacce. Dal terrorismo delle Brigate Rosse a quello islamico, dai processi contro Renato Curcio a quello contro i complici di Abu Omar e poi contro quegli agenti dei servizi segreti che rapirono l'ex imam di Milano. Ci sono 30 anni della storia più dolorosa e cupa del nostro paese nelle inchieste del procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro, che ora lega passato e presente in una profonda riflessione per concludere che ne valeva la pena, titolo del suo libro edito dalla Terza, di cui ci ha già raccontato l'origine nella prima parte. Ripartiamo parlando di misteri e complotti. Sismi, servizi segreti evocano in Italia manine o le manone di cui lei parla. Io credo che in Italia ce ne siano dei misteri, ne abbiamo probabilmente anche tanti, troppi, ma questo non deve indurci a moltiplicarli, per cui io mi occupo dei presunti misteri che io conosco, di quello che si pensava per esempio attorno alla morte di Alessandrini, siccome indagava su Piazza Fontana, chissà, forse i servizi c'erano dietro. Dell'omicidio Tobagi non ne parliamo, parlo soprattutto della scoperta della base del covo delle Bierre di via Montenevoso. Attorno a questa vicenda addirittura la commissione stragi ha articolato documenti in cui si ipotizzavano misteri, che però insieme a Pomari ci avevamo anche chiarito, chiedendo noi, senza essere stati convocati come sarebbe stato logico attendersi, di essere sentiti dalla commissione. A proposito di cose non chiarite, dal lontano passato lei mette nero su bianco il suo rimpianto per non aver individuato i responsabili del delitto di Fausto Iaio. È una vicenda alla quale ho personalmente dedicato un periodo di grande lavoro. Ricordo il dolore dei genitori, ricordo la sorella di una delle vittime. Per quelli del passato, come per la vicenda ultima del processo a Buomaro, lei poi dice spetterà tra qualche decennio a chi potrà andare a guardare le carte degli archivi nel momento in cui saranno aperti. Era stato anche detto che cadeva il segreto di Stato sui fatti vecchi di 30 anni, ma nessuno ha ancora visto un accesso agli atti, ad esempio, della vicenda Moro. Non è che il segreto di Stato non abbia anch'esso ragione di essere. Il problema è che questo segreto di Stato talvolta tracima, si spalma e quindi viene a coprire fatti e responsabilità che non potrebbero esserne oggetto. Ed è pure curioso che, come è avvenuto nel caso Omar, si dica da parte dei due governi: sul sequestro non c'è il segreto di Stato, ma c'è su una serie di elementi che poi si è visto ne costituivano prova di responsabilità di alcuni imputati, secondo l'accusa. È venuto che oggi in altri processi il segreto di Stato è stato opposto, per esempio nel processo Telecom, nel processo di Perugia sulle carte sequestrate in via nazionale. Persino Magdi Allam ha goduto di una sentenza di non doversi procedere per il segreto di Stato per il reato di diffamazione. Io credo che il segreto di Stato abbia, come ho detto, ragione d'essere, ma che debba essere usato molto limitatamente, e che gli archivi che contengono documenti coperti di segreto, come avviene negli Stati Uniti, debbano essere a un certo punto aperti. Del segreto di Stato se ne è tornato a parlare anche nel testo sulle intercettazioni, una norma che poi adesso è stata accantonata. È stato già detto che se ci fosse stata quella norma il processo a Buomar non sarebbe stato possibile attuarlo. Dovrebbe essere proprio cancellata la stessa idea di estendere la possibilità che il Presidente del Consiglio apponga il segreto di Stato su conversazioni eventualmente intercettate per il solo fatto che essi riguardino attività di servizio degli appartenenti ai servizi di informazione. Veniamo alle intercettazioni. Secondo lei c'è la necessità di una regolamentazione? È vero che c'è stata una pubblicazione di conversazioni che nulla hanno a che fare con l'oggetto delle indagini. Quello che a mio avviso si dovrebbe fare è istituire il famoso archivio riservato, di cui si occupava già un progetto del ministro Flick del 98. Se ne sono occupati stati pure il progetto Castelli, Mastella e anche del ministro Alfano. Si tratta in sostanza di estendere la segretezza fino al momento in cui il giudice non decida quali sono quelle rilevanti e quelle no. Quindi udienza filtro. Un'udienza filtro obbligatoria, ma prima di quell'udienza, diversamente da oggi, tutte le intercettazioni vanno in un archivio riservato dove l'avvocato ha diritto ovviamente di accesso, consultazione, ascolto, ma è sottoposto al segreto, perché il segreto non cade, mentre oggi, come ho detto, cade. Cade stranamente che la tutela della privacy viene utilizzata poi per destrutturare il più importante strumento di indagine contro ogni tipo di criminalità. E qui non c'è coerenza rispetto a chi dice la sicurezza è la nostra principale preoccupazione, però poi i poliziotti per primi dicono che sarebbero indeboliti nella loro azione. Sui rischi di un ritorno di un terrorismo, se ne è parlato anche a proposito dell'aggressione che c'era stata qui a Milano al Premier. Pensa che ci possa essere questo rischio? Tendenzialmente direi di no. Tralascio ipotesi che hanno portato a collegare episodi banali a scenari di terrorismo, no. Credo che però quel terrorismo come l'abbiamo conosciuto negli anni di piombo sia ormai irripetibile. Quali sono i disastri ambientali di cui lei parla? Da un lato il calore sul nostro pianeta, tra questo disastro e il disastro che riguarda la giustizia. Credo che i rapporti tra politica e giustizia si sono guastati all'inizio degli anni 90 con le inchieste su Mani Pulite. Dunque ecco che le riforme della giustizia hanno determinato un indebolimento del controllo di legalità affidato alla giustizia. Ecco, questo a mio avviso è un disastro dal quale bisogna uscire. Io non condivido che si possa venire fuori da questa storia con una sorta di mediazione sui principi. Io ad esempio non condivido praticamente nulla di quello che ha scritto il responsabile del settore giustizia del PD, non mi interessa minimamente, neppure lontanamente la politica, però bisogna avere il coraggio di individuare esattamente cosa si vuole per riforma. Dall'entrata in vigore di questo processo penale nell'89 ad oggi sono state approvate 83 leggi che sono intervenute sul codice di procedura penale. Nessuna tentazione della politica, ma qualche offerta? Zero di zero, ma voglio dire, ma di questo mi compiaccio. Il 1 luglio ci sarà lo sciopero della magistratura proclamato contro la manovra. Dopo scioperi che invocavano una difesa dell'autonomia della magistratura, questo tipo di sciopero lei come lo legge? Premetto, non ho mai fatto in vita mia uno sciopero per ragioni retributive. In questo caso, intanto, noi abbiamo messo sul tappeto, per esempio, le incredibili penalizzazioni che vengono inferte ai giovani. E più in generale, io comprendo che uno Stato in difficoltà economica, come qualsiasi debitore, possa dire al creditore, scusa, in questo momento ho delle difficoltà, rinvio il pagamento del debito. Non è accettabile che il debitore dica ho delle difficoltà e annullo a zero il debito. Se il magistrato deve, come tutto l'impiego pubblico, sottostare a un sacrificio, ed è giusto che sia così, io non riesco affatto a comprendere che questo sacrificio debba essere richiesto soltanto a chi opera nel settore pubblico. Un'altra obiezione che spesso si fa un po' ai magistrati, ma è un tema che lei affronta nel suo libro, citando le parole di suo padre. Diceva di come i magistrati dovrebbero far parlare le sentenze. E mio padre sarebbe molto preoccupato anche al sentire questa intervista. Il principio secondo cui i giudici parlano solo con le sentenze, certamente valido, era però valido in un periodo storico in cui i giudici non venivano attaccati con espressioni violente, quando i giudici non erano pedinati e ne veniva messo in luce il colore delle calze che indossavano. Era un periodo in cui le sentenze si potevano criticare anche duramente, ma non accusare di essere il prodotto di scelte politiche di malafede. Questo è avvenuto. Quindi le toghe rosse o azzurre non esistono? Ma no, ma basti vedere che ormai l'appellativo di toghe rosse viene attribuito a tutti. L'immagine che lei ricorda più spesso nel suo libro è quella della morte di Galli. Accorsi all'università dopo che era stato ucciso e lo trovai in quel corridoio con il codice a pochissima distanza dalla sua mano, lo stava consultando prima di entrare a fare una lezione. Quell'immagine rappresentava tutto, rappresentava il senso della democrazia, l'assurdità di certi delitti. Ecco perché è così forte in me la rabbia ogni volta che sento qualcuno parlare di un codice come di uno strumento che i magistrati utilizzerebbero secondo i loro desiderata, anziché in maniera così retta, onesta e convinta al punto da sacrificare la propria vita. Come sempre vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate delle Storiacce sul sito radio24.it. Ciao, a sabato!